A New York negli anni 80 succedono un sacco di cose. Intanto è l'America di Reagan, è l'America in cui si vive l'economia, scusa, si vive la trasformazione definitiva dell'economia in finanza. È l'America di una nuova generazione di artisti, di musicisti, di giovani che impongono un segno forte. È un'America, è New York, dove Andy Warhol torna ad essere il protagonista. Questi giovani, questi amici, se vogliamo, come tra l'altro è anche definito nel titolo della mostra, sono critici rispetto a tutto ciò? No, perché in quegli anni c'era bisogno di ritrovare un entusiasmo che forse i 70 avevano un po' perso per strada. Certo, il fatto che la cultura, la nuova cultura della pittura newyorkese, soprattutto nella prima fase, in qualche modo derivi dalla strada, in qualche modo derivi, anzi, prenda origine dalla metropolitana, ha indubbiamente questo senso, se vogliamo, di diversità rispetto al passato. Però la cosa davvero fondamentale fu proprio l'incontro, no? Tra il mondo, per esempio, delle gallerie e quello dell'underground. È un mondo che va totalmente in rottura o getta qualcosa nel passato? Io credo che stiamo per entrare davvero nella cosiddetta condizione postmoderna, e quindi è evidente che, per esempio, in una certa pittura, quella più da galleria per intenderci, dove tra l'altro anche gli italiani giocano un ruolo fondamentale, ovvero Francesco Clemente, Sandro Chia, il postmoderno si è innato, per cui il rapporto con il passato è chiaramente un'urgenza nuova. L'importante è rileggere il passato in chiave contemporanea. Abbiamo un fermento importante anche a Bologna in quel periodo e ci sono delle attinenze. Più d'una. Intanto la street art che Francesca Linovi, forse per prima in Italia, riuscì a catturare e anche a portare a Bologna e in generale nel nostro paese. Penso alla scrittura di Pier Vittorio Tondelli, testimone assoluto di quel tempo. Davvero, dopo un weekend postmoderno, ancora aspettiamo che qualcun altro scriva il vademecum dei nostri anni, anche se probabilmente dei nostri anni ci si potrebbe aspettare una lettura un pochino meno interessante, purtroppo. E poi l'attività del nuovo fumetto italiano, del Dams, di tutto quello che stava succedendo, e certamente nella città italiana in quel periodo più effervescente, più stimolante. Entriamo in mostra allora, quante opere? Circa 200. Abbiamo citato Franz, gli amici, chi sono? I miei ci sono intanto Jean-Michel Basquiat, che volle a tutti i costi conoscere il suo guru Andy Warhol. Insomma, la leggenda vuole che si incontrassero in un bar dove appunto Basquiat aveva voluto vendere, provare a vendere a Andy i suoi disegni. Keith Haring, Francesco Clemente, ma non solo, anche tutti quegli artisti che magari non hanno avuto la stessa celebrità. Penso, mi riferisco ai vari Kenny Scharf, Peter Schuiff, Ronnie Cutrone, se parliamo di street art, e poi invece al piano di sopra i grandi della pittura degli anni 80 a New York, ovvero Julian Schnabel, Robert Longo, David Sully, Jeff Koons, che è quello che davvero ha costituito un altro passaggio fondamentale proprio in questo discorso di artisti che si sono soffermati, scusa, che si sono affermati non nelle accademie, nelle scuole d'arte, ma a Wall Street. Domanda immancabile, rapporti con la musica. Beh, se non ci fosse stata la musica, cominciando dal fatto che nel 1967 Andy aveva prodotto il disco dei Velvet Underground perché lui voleva la sua rock band, probabilmente la musica non sarebbe stata, cioè, anzi, per meglio dire, la scena dell'arte non sarebbe stata così altrettanto stimolante. Ma d'altra parte, chi verrà a vedere questa mostra non sarà sollecitato soltanto ad aprire gli occhi, ma anche ad ampliare il proprio orizzonte cognitivo attraverso l'udito, perché nell'ultima sala abbiamo ricostruito una discoteca negli anni 80, e quindi, come diceva David Bowie, let's dance. Ok, direi che con questa conclusione vedo grande e soprattutto sento tanto entusiasmo, quali emozioni? Guarda, io vengo da Torino. Però devo dire, e non per piaggeria, che lavorare a Bologna è veramente sempre molto molto divertente, a cominciare dal fatto che chi ti intervista, per esempio, ti sorride.